Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinile Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai eh! Hey everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Minuti. Ritorniamo qui in voce su Radio Onda Rossa 87.9 in FM della banda romana e laziale. Ed in diretta streaming sul restante globo terracqueo. Attraverso il sito della radio www.ondarossa.info. Sito attraverso il quale potete sostenere questo progetto nato libero nel 1977. Eh sì, perché sono 39 anni che questa radio va avanti in totale autogestione. E grazie al sostegno di ascoltatori ed ascoltatrici. E quindi vi invitiamo a sostenere questa radio attraverso il sito della radio, appunto andando a cliccare su Sostieni. Troverete una paginetta con tutte le coordinate per poter sostenere questo progetto. Nonché le cose che diremo adesso velocissimamente e che non farete in tempo a segnarvi. Perché potete sostenere Radio Onda Rossa anche attraverso lo storico conto corrente postale. Il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00 185, Roma San Lollo. Bravissimo, bravissimo. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione fantasma@ondarossa.info, dove potete scriverci per segnalarci le vostre autoproduzioni. Di questa terra saremo ben felici di passarle qui su queste frequenze. Storia di chi moriva per la libertà. Nonché potete segnalarci le vostre iniziative per non tradire questa identità. Di quel silenzio sulle... E quindi fatevi sentire. Il sottotesto è sempre quello: non delegare, partecipa. Non per ultimo il numero di telefono 06 49 1750. E questa sera ci è venuto a trovare che non sorge direttamente da Radio Opossum. No, Radio Opossum, diciamo, una ossola, è tutto attaccato. Radio Opossum? No, sì. Cioè, no, non è Radio Opossum, ma Radio Opossum. La ci è venuto a trovare direttamente da Radio Opossum. Sì, so io. Sì, ok. Sopra le... Grazie, Radio Opossum. La città. Ritorna in mente quella tua storia di chi moriva per la libertà, di tutti i sogni, delle ragioni per non tradire quest'identità, di quel silenzio sulle montagne, di quelle notti come eternità, e brucia dentro come mille colpi al cuore ogni ribelle e tutto il suo dolore. Fuggire in mano, guardi la notte, fratelli che non torneranno più. Le troppe notti, le ali al tuo suono ci sarai più tu. Ed hai lottato per quell'alba rossa che non sorge mai. Non sorge mai. Non sorge mai. Non sorge mai. Non sorge mai. Non sorge mai. Non sorge mai. Non sorge mai. Allora, siamo giunti in prossimità di quella che è Onda Rossa Fest. E quindi una due giorni. No? Già ho sbagliato. Onda Rossa Festa. Onda Rossa Festa. C'erano questi. No, vabbè. Stasera niente. Sei creativo con le vocali, però va sì, bene, dai. Ok. Cioè, le aggiungo dove non serve e le tolgo esatto. Dove serve, perfetto. Onda Rossa Festa. Allora, quindi domani al CSOA ex SNIA Viscosa. Indirizzo? Indirizzo via Prenestina 173. Eh beh, cioè. Chi non lo sa? Chi non lo sa? Qualcuno a casa. Niente. Va bene. Allora, niente, insomma, un programma bello cicciotto. Un programma fitto. Allora, ricordiamo, domani è la giornata quella più dedicata alla musica, mentre sabato sarà quella dedicata più al teatro, anche se sappiamo in realtà ci sarà musica tutti e due i giorni. Comunque domani dalle 18:30 c'è un dibattito che abbiamo preparato a cura della redazione di Radio Onda Rossa e di alcuni ospiti che saranno Sandro Portelli, Giacomo Sferlazzo, e dal titolo Nostra Patria e il Mondo Intero. Quindi, come potete intuire, parleremo di migrazioni e di quanto le migrazioni e gli emigranti siano portatori e portatrici di lotta di classe, ovviamente. E poi dalle 21 concertoni con I Shine. Ora io qui sui nomi di solito ti è partito l'incisivo su Shine. Va bene, sì, sui nomi faccio confusione. I Shine, musica reggae. Female Trouble Band, rock and roll, molto molto molto, insomma, molto figo, l'ho già sentite. Alga Kombu, Rock the Gender, anche questi da Bologna. Da Bologna. E poi, questo non lo so dire, però Wibblefetzer, Brass and Roll. Si dice così? Sì, no, immagino di Wibblefetzer. Come si dice? Wibblefetzer. E quindi, insomma, da domani si inizia, insomma, con questo programma dedicato sia al dibattito che alla musica. E poi cioè, durante tutta la serata, all'interno, in giro, potrete trovare una postazione di musica trash, spritz, insomma, una cosa un po' così come ci piace a noi, insomma. Sì, esattamente. No. Ci piace lo spritz, ecco. La musica trash che, insomma, ci fa tirare fuori il meglio binomio, di noi. Un bel certo, binomio, certo. E poi un'altra postazione in cui ci sarà un po' di reggae, cumbia, quindi più per chi invece gli piace ballare a ritmi più Bonge. No, tra l'altro avete la fortuna di ascoltare questa sera due dei componenti che faranno parte del Trash Spritz Bar. Però bar. Siamo straight edge, quindi Io in realtà lo sono stato per molto tempo, ma ho avuto un triste epilogo questa cosa. Va bene, comunque sì, ci saremo entrambi a servirvi degli ottimi spritz che io non so preparare. Però tanto lo sappiamo tutti, nessuno gliene frega niente qual è il sapore degli alcolici, perché è quello che conta. Ma poi soprattutto dello spritz, che è prettamente nordico, quindi non è che, cioè, a Roma chi è l'esperto di spritz? Ma non lo so, io non so neanche gli ingredienti, ora se mi richiedi. Però per domani li saprò, ovviamente avrò fatto il corso da miscelatore di spritz professionista. Non è che stai proprio invogliando gli ascoltatori. No, però per questo, per dire che appunto io non farò gli spritz, starò lì soltanto a pulire il bancone mentre ci saranno le esperte barman vicino a me a produrre degli spritz di prima qualità. Però sei un fast learner e quindi saprai in pochissimo tempo. Vabbè, insomma, dai. E no, dice scusa, t'ho interrotto nel tuo serio. Basta, non stavo dicendo nulla di buono. Va bene. Allora, io c'ho pronti gli Alga Combo. Non sappiamo bene l'ordine della scaletta di domani, sarà tutta una sorpresa. E comunque ci saranno anche loro da Bologna. Loro sono gli Alga Combo, Rock the Gendered. Sì, vabbè, Rock the Gendered. Rug. Niente, no, stasera dislessia, portami via. E ce l'ascoltiamo dall'album dall'album In Fin dei Corpi. E questa è la cultura dello stupro. Insomma, questi erano gli Alga Combo da In Fin dei Corpi. Buonasera Valeria. Ci sei? No, forse. Allora, risolviamo in tempi brevi i problemi più che tecnici, mentali del sottoscritto. Ci senti? Valeria? Pronto? Va bene, proviamo a ristabilire il contatto. Allora, questa sera, insomma, siamo giunti a un nuovo appuntamento del progetto Le Vostre Lettere, che è una serie di racconti ideate, scritte e musicate dai Kalashnikov Collective. Abbiamo in collegamento Valeria. Sì, ci sono presente. Ok, allora ben trovata. Grazie a voi. E abbiamo anche Radio Possum. Ciao. Sei pronto anche tu, no? No, questa sera non sento quasi nulla, però va bene. Ecco, ora sento. Sì, ora ci sei. Vabbè, questa sera, insomma, siamo un po' eterei. Certo. Nell'etere. Allora, ci ritroviamo dopo qualche settimana dal racconto precedente ed andiamo a chiudere questa sera la serie di racconti del progetto Le Vostre Lettere. E, insomma, Valeria, ci vuoi presentare il racconto di questa sera? No. Certo, allora, il racconto di questa sera direi che forse è il più folle di tutta questa serie qui. È stato ispirato dalla visione di un documentario che si chiama Life After Human di History Channel, in cui hanno, non so di che anno sia, di qualche annetto fa comunque, hanno ricostruito grazie alla computer grafica, facendo degli studi di proiezioni, che cosa potrebbe succedere alle città nel momento in cui dovessero sparire gli uomini, ma dall'oggi al domani, senza scenari apocalittici di pandemie o cose varie. Proprio dall'oggi al domani spariscono gli uomini e lasciano tutto così come hanno lasciato. Ed è molto interessante perché inizialmente il documentario procede per orari. Mm-hmm. Poi le ore diventano giorni, poi diventano mesi, poi diventano anni, e mi aveva molto colpito perché, pur non essendoci l'uomo, la sua impronta sulla terra, le conseguenze delle sue azioni hanno delle, in questa proiezione che chiamo fantascienza, delle proiezioni per secoli e secoli e secoli, se non addirittura millenni. Mi ha fatto soprattutto impressione la sorte di quelli che noi definiamo animali domestici o addomesticati, dagli animali che ci teniamo in casa, che adottiamo e che chiamiamo appunto animali domestici, o se no quelli legati alla produzione di carne, cibo e industria pellare e tutto quanto, quindi insomma che consideriamo merce e non amichetti da tenerci sulle ginocchia che fanno le fusa. E quindi dalla visione di questo documentario, poi anche da mi ricordo che era uscito un videogioco che si chiamava, beh no, non me lo ricordo il nome, okay. Comunque anche lì era ambientato in una Tokyo deserta, dove gli animali avevano ripreso il possesso di quello che erano gli edifici urbani, dai rampicanti che si erano presi, avevano preso possesso dei grattacieli, tutta una serie di cose, e è venuto fuori questo racconto, ecco, che è veramente ironico, che però se si legge tra le righe, proprio del tutto scemo non è, ecco. Ok, allora io direi di ascoltarcelo e poi ci risentiamo a fine racconto e vediamo, insomma, ci rincontriamo con le nostre solite chiacchiere. Dai. Va bene. Allora, buon ascolto. Stai lì. Grazie. Quando Dio si risvegliò da quella che doveva essere stata una notte di pura follia e oblio, si rese conto che tutto era andato in merda. Primo danno, tra tutti, quello di aver ingravidato una vergine col proprio seme divino ed aver così procreato il figlio di Dio. Un bravo ragazzo, non c'è dubbio, ma vissuto poco, male e morto peggio. Come chiamate perse sul cellulare, Dio si rese conto di aver fatto cadere nel nulla e senza risposta alcuna le numerose richieste di aiuto da parte di quel figlio rivoluzionario, lasciato morire in croce. Eppure, la morte del figlio di Dio non era nulla rispetto a ciò che avvenne dopo. A farlo sentire davvero uno schifo, ci avrebbero pensato gli uomini, l'ultima delle sue creazioni, quella che per assenza di fantasia, forse eccesso di stanchezza, aveva creato a propria immagine e somiglianza, gli uomini, che su quel fatto, il rapporto non protetto, l'eiaculazione fecondante, il martirio del risultato, ci avevano costruito una religione e per quella religione avevano ucciso ed erano stati uccisi. Nel suo nome avevano costruito imperi e ne avevano distrutti degli altri, avevano fatto guerre, sterminato popoli, torturato uomini di scienza e donne del volgo, avevano fatto un cazzo di gran casino, insomma, ed era tutta colpa sua. Dio guardò il pianeta Terra e si biasimò, chiaffeggiandosi il volto, colpendosi la testa coi palmi della mano e picchiando i pugni sul petto tuonò: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, stupido, stupido Dio. Era bastata una notte, una singola notte in cui aveva deciso di venir meno alle proprie responsabilità per determinare una tale catastrofe di entità e gravità inimmaginabili. E sebbene non ci fosse nessuno con cui fare i conti, questo era vero, Dio divenne il peggiore e il più severo dei giudici di fronte alla propria condotta. Dopotutto era stato lui ad inventare l'autocritica, la carenza di autostima, il perfezionismo ossessivo compulsivo e il senso di colpa. Ciò che aveva di fronte agli occhi era una vergogna ed ogni istante che passava la situazione sembrava solo peggiorare. Osservò gli uomini, comprese il suo errore, decise di concedergli qualche ora, una seconda chance. Ma ciò che ottenne furono un paio di guerre mondiali, un olocausto e due esplosioni nucleari. Aspettò ancora un po'. Dopotutto erano i suoi figli, cresciuti con un padre assente. La questione forse stava nell'assenza di autorità ed educazione e non nella cattiveria intrinseca della creatura. Ma poche ore della vita di un Dio corrispondono a una manciata di secoli della storia dell'uomo. E nulla, in questo lunghissimo lasso di tempo a misura d'uomo, andava per il verso giusto. L'uomo stava distruggendo se stesso e il mondo intero. E allora Dio capì. Decise di porre fine all'esistenza di quella creatura venuta male. Chiacciò il tasto reset, salvò tutto tranne l'uomo. Salvò la notte, salvò il giorno, salvò il cielo e il mare, gli alberi e le piante, la luna e il sole, salvò gli animali. E questa che vi sto raccontando è la storia di alcuni di loro. I primi a perire furono i cani di razza purissima che la malsana eugenetica da competizione aveva condannato a musi troppo lunghi, a grugni troppo schiacciati e a teste tanto grosse da lacerare le madri che tentavano di dargli alla luce naturalmente. Poi cominciarono a cadere come mosche le bestie prigioniere degli allevamenti intensivi, maiali a cui erano stati asportati naso e denti per evitare aggressività e follie cannibali, tacchini talmente grassi da non poter camminare sulle proprie zampe, e mucche, orde di mucche talmente malate e infette da non poter sopravvivere senza il bombardamento quotidiano di farmaci e antibiotici. Dio li guardava perire e non poteva fare nulla. Quelle cose non avevano nulla a che fare con ciò che lui aveva creato ed inserito nella grande incubatrice che era la natura. Quegli esseri erano abomini generati dall'uomo, incapaci di vivere senza i loro creatori e carnefici. Tutti gli altri animali sopravvissero, tutti quelli che erano riusciti a svincolarsi dal controllo dell'uomo e si erano accoppiati mischiando il patrimonio genetico ed obbedendo alle leggi dell'evoluzione. Cani bastardi si unirono ai lupi, riscoprendo il proprio istinto e la gerarchia del branco. Gatti simili a piccole tigri si ritirarono nei grattacieli abbandonati dall'uomo, predando roditori ed uccelli che invasero i piani più alti insieme ai rampicanti. Persino le piante riconquistarono il loro spazio, calfendo il cemento e frantumando i cristalli delle finestre. I fiumi ruppero gli argini e ridisegnarono le loro anse, portando via spazio all'asfalto. Le bestie e le piante rivoluzionarono lo spazio urbano, che divenne arena delle loro battaglie campali. I semi tropicali importati dall'uomo perirono sotto la scure della vegetazione autoctona e infestante. Le palme morivano al nord per crescere rigogliose al sud. I pappagalli colorati migrarono verso il caldo tropicale e così fecero gli aschi siberiani e malamute, spostandosi verso il freddo. Ogni cane, gatto, pesce o pianta che sopravvisse all'assenza degli uomini, cooperando e lottando con le altre specie, trovò un suo posto nel mondo. Tutti, tranne alcuni. Non aveva mai avuto un nome, ma un cartello pinzato nell'orecchio e un marchio a fuoco sul fianco le attribuiva un'identità composta da una serie di numeri. Aveva mammelle tanto grandi da sfiorare il suolo. Nella sua breve vita aveva dato origine a un numero imprecisato di vitelli che le venivano portati via non appena fossero stati in grado di reggersi sulle proprie zampe. 2 o 3 giorni al massimo e poi via, chissà dove. E a lei non restava che la disperazione, la solitudine e il latte. Produceva e continuava a produrre, nonostante l'assenza di prole, fino a 50 litri di latte al giorno. Latte che, quando ancora c'erano gli uomini, le veniva aspirato da grosse bocche metalliche attaccate a dei tubi. Dopo che l'addetto alla mungitura, vestito con uno scafandro, le bruciava con un lanciafiamme la peluria ed ogni possibile batterio dalle mammelle. Ma ora gli uomini non c'erano più. Niente più ustioni, niente più bocche metalliche, nessun tubo le succhiava via il latte e lei non sapeva come liberarsene. Vagò per l'immenso allevamento in cerca di aiuto. Sembravano tutti svaniti nel nulla. Avvicinò le mammelle gocciolanti di latte al tubo di scappamento di un camion, ma quel tubo non succhiava nulla. Ci provò allora con un tubo di gomma che gli uomini usavano per lavarsi gli stivali dagli escrementi, ma niente. Neanche il tubo di gomma dell'acqua era in grado di succhiare il latte e liberarla da quel peso insostenibile. Arrivò poi al recinto dell'ingrasso e vide tante altre mucche come lei, ma di dimensioni ridotte. Muggivano, piangevano, calpestavano i cadaveri di chi era morto di stenti. Gli si avvicinò, ma i piccoli che erano sopravvissuti non sapevano cosa farsene di quei lembi turgidi di carne. Le madri non sanno come nutrire i figli e i figli non conoscono le proprie madri, condannandosi così a morte certa. Quale abominio, contestò franto Dio. Ma non fece nulla, perché questa era la legge che dominava il mondo, la sua legge, quella della sopravvivenza e dell'evoluzione. I deboli periscono, i forti sopravvivono. La vacca numero 23022013, dopo aver visto vitelli morire di stenti e le mucche da latte agonizzare per il troppo dolore, decise di uscire dallo stabilimento in cui aveva sempre vissuto. Passò davanti alla grande giostra su cui veniva disposta, insieme ad altre 20 o 30 sorelle, per essere munta. Un'immensa piattaforma rotante di acciaio, predisposta di gabbie, catene, ganci e pompe succhialatte, che però, senza l'intervento dell'uomo, non facevano quello che dovevano fare. Andiamo, disse ad un'altra vacca, a cui stava per esplodere la sacca del latte. Andiamo via di qui, troveremo da qualche parte degli uomini, troveremo qualcuno disposto a mungerci, disse. Ma l'altra perì davanti ai suoi occhi e lei proseguì da sola per il suo viaggio. Dopo diverse ore, finalmente, trovò qualcuno che la mungesse, ma non era un uomo, ma bensì un cane. La stragrande maggioranza dei cani di razza non era sopravvissuta all'assenza degli uomini. Cani troppo piccoli per lottare o troppo deboli per cacciare erano stati uccisi e mangiati da altri cani bastardi e più forti. Quasi tutti i chihuahua, nani, detti toy, per esempio, erano stati sbranati nell'arco di poche settimane ed erano prossimi all'inevitabile estinzione della razza. se non fosse stato per Focaccina. Focaccina, questo era il suo nome, ultimo sopravvissuto della specie, riuscì a sconfiggere la fame, la violenza e l'aggressività dei cani più grossi di lui per una semplice ragione: era uno stronzo inenarrabile. 25 centimetri di altezza per poco più di 1,5 kg, albino, incapace di camminare con le proprie zampe dopo una vita vissuta nella borsetta di una ricca ereditiera cocainomane. «Lurida puttana! Lurida puttana!» le abbaiava, leccando nel naso rifatto dopo essersi leccato il buco del culo. E lei rideva giulina. «Oh, Focaccina, Focaccina, amore mio!» «Per fortuna che è morta quella troia», disse uscendo dalla borsetta, per poi però scoprire che le sue gambe non erano in grado di reggere nemmeno il suo peso iniquo. E allora abbaiò così forte, così a lungo, da attirare l'attenzione degli altri cani. Li studiò uno a uno, nascosto nella borsetta, fino a quando non trovò quello giusto. Ferox, un molosso tanto grosso quanto scemo, a cui fece credere che se gli avesse obbedito senza fiatare, l'avrebbe aiutato a ritrovare il suo padrone. Uno skinhead nazionalsocialista decerebrato che stava marcendo in prigione per aggressione a sfondo razziale. «Deve essere un bel tipo il tuo padrone, mi sta simpatico», disse Focaccina, a cui facevano schifo i negri, i mulatti, i feroci, handicappati, i musulmani, le donne. Focaccina sapeva, ovviamente, che il genere umano si era estinto. «Era ora», abbaiò verso Dio quando accadde, e che Ferox non avrebbe mai più leccato il grugno del suo padrone, ma gli avrebbe detto qualsiasi cosa pur di assoggettarlo. Aveva bisogno di altre zampe, della sua forza e della sua mandibola spezza ossa. «Davvero, Focaccina? Davvero potrò tornare dal mio padrone?» chiese incredulo e nostalgico delle numerose bastonate che l'uomo gli aveva inferto. «Sì, a volte mi picchia, ma perché io sono stupido e lo faccio proprio innervosire, ecco. No, no, non è un violento. È che quando lotto con gli altri cani e perdo, lui ci smena un sacco di soldi», si giustificava con gli altri cani al parco, che gli tiravano i coppini e con i gatti che gli vomitavano con sdegno sulla testa dai rami degli alberi. Ai gatti un po' dispiacque della dipartita degli uomini. Tutto d'un colpo persero quei pratici schiavi bipedi che fornivano loro vitto, alloggio e posti comodi in cui dormire, smaltivano le loro deiezioni e smazzavano i loro cuccioli non appena svezzati, liberandoli così dai cuccioli avere bocche da sfamare e figli da crescere. La piccola e meravigliosa Yumi non aveva neanche 2 anni quando gli uomini scomparvero dalla terra. Fino ad un secondo prima si faceva le unghie sul divano della sua padrona, giocava con gomitoli di lana, sgranocchiava caricabatterie del telefono e si faceva pettinare il lungo manto tigrato. E un secondo dopo eccola, col culo all'aria, gocciolante, ed una sensazione di vuoto, fame, desiderio e disperazione che mai aveva provato. Cominciò a piangere, a strusciarsi sugli angoli della casa ormai vuota, si rotolava per terra e piangeva, piangeva, piangeva. I gatti maschi arrivarono dopo poche ore, gatti brutti, cenciosi, a cui mancavano pezzi di corpo, occhi cavi, orecchie sbrindellate, code mozze. Avevano aliti di topo e unghie sporche di peli, piume, sangue rappreso. Nulla avevano a che fare coi gatti che aveva conosciuto lei alle varie fiere e mostre di competizione felina. Esemplari bellissimi e mensueti a cui le padrone staccavano persino i baffi se questi stonavano col colore del pelo o costituivano un'eccezione ai canoni standard di razza. La piccola Yumi aveva persino vinto qualche premio. Si era aggiudicata alcuni trofei che la sua padrona aveva appeso in cucina. Ma il tempo delle mostre dei trofei era passato. Senza la padrona che le somministrava ormoni maschili a sufficienza ad inibirle l'estro, la piccola Yumi si trovò nel pieno del calore senza sapere cosa fare. I gatti si sfidavano, combattevano ed arrivavano ad uccidersi pur di essere scelti da lei. Inizialmente li trovava stupidi e ridicoli nella loro ferocia, ma col tempo invece cominciò a provare una certa soddisfazione nel vedere tutti quei gatti scannarsi per mostrare la propria forza e cercare di fare colpo su di lei. Lo vide arrivare al quarto giorno di combattimenti. Era un maschio tigrato di 4-5 anni, asciutto e nervoso. Gli mancava un pezzo di orecchio e zoppicava leggermente, ma sembrava compensare la menomazione in aggressività ed astuzia. Combatteva in modo diverso dagli altri gatti. In lui non c'era quella smania di accoppiarsi che accomunava e caratterizzava gli altri. In lui c'era lucidità, tattica ed un certo compiacimento nell'accecare e sfregiare gli avversari. «Lo chiamano lo zoppo bastardo», disse Lemmy, un gatto vecchio e castrato che l'aveva presa in simpatia. «Se è vero quello che dicono le rane e i rospi, ci sono buone probabilità che diventerà il padre dei tuoi figli». disse a Yumi, che non poté fare a meno di sentirsi intimorita ed eccitata allo stesso tempo. Ora lo sapeva, aveva scelto, ma la legge dei felini imponeva che solo il più forte avrebbe potuto congiungersi a lei, e quindi aspettò con la stoica pazienza di una femmina innamorata. Dopo una manciata di ore, lo zoppo bastardo, come prevedibile, ebbe la meglio su tutti gli altri. Sfregiato l'ultimo avversario rimasto, andò verso di lei, la violentò ripetutamente e quando Yumi ne ebbe a sufficienza, gli si rivoltò contro e gli tirò una zampata in pieno muso. Ora, oltre che zoppo, sei anche sfregiato, stronzo, gli disse. Che caratterino la principessina, rispose lo zoppo bastardo, leccandosi la zampa per cercare di tamponare il sangue che, copioso, rovinava dalla ferita. Dopo di ciò lo zoppo bastardo sparì e lasciò Yumi da sola col suo ventre fecondato e i futuri 7 gattini, tutti tigrati, che presto sarebbero nati. A noi, disse a quei piccoli mostriciattoli umidi e pigolanti, dopo aver mangiato la sua stessa placenta, deglutì l'ultimo pezzo viscido e si leccò i baffi. Non c'era tempo da perdere, doveva crescere 7 gatti e addestrarli a sopravvivere in quel mondo senza uomini. Allora, e così insomma si conclude il racconto che abbiamo ascoltato. E ci sei, Valeria? Pronto? Stasera c'è qualche problema. Ecco, io ti sento. Sì, no, c'ho dei problemi con il mixer, come sempre. No, ci sei. Ok, eccomi. Questi maledetti pulsanti da pigiare è una maledizione. Allora, insomma, no, abbiamo qui Radio Possum, che insomma gli era... Vabbè, no, intanto ciao. E ovviamente no, vabbè, molto insomma, a me è piaciuto molto il racconto, credo anche a te ci siamo scambiati qualche sguardo. E no, volevo chiederti così, la prima domanda è: come mai avevi scelto di fare un racconto ispirandoti a quello che succederebbe se dovessero scomparire gli uomini? Tra l'altro, vabbè, un tema questo qua molto molto caldo nel movimento antispecista. Mi ricordo quando è uscito il documentario, che tra l'altro è ispirato da un libro e da alcuni racconti. Il documentario è venuto dopo. All'epoca c'era una rivista, La Nemesi, subito uscirono degli articoli sulla Nemesi in cui ci stavano delle foto e dei racconti in cui appunto si descriveva come sarebbe stato il mondo dopo la scomparsa dell'uomo, e si metteva in luce quello che scompariva prima, quello che scompariva dopo. Paradossalmente magari il Colosseo era una di quelle cose che sarebbero durate di più, invece sì, la tecnologia sì, ultramoderna subito veniva spazzata via dalle tempeste, dall'incuria, eccetera eccetera. Quindi vabbè, la prima domanda: come mai hai scelto di occuparti proprio di questa cosa? Beh, per due motivazioni per cui che ho molto al cuore. La prima ovviamente è il discorso legato agli animali e all'uso, allo sfruttamento che l'uomo fa degli animali, soprattutto quando che è alla base del concetto di antispecismo, quando consideriamo i cosiddetti animali domestici esseri da proteggere, di cui vantarsi. Infatti c'è la piccola meravigliosa Yumi che viene portata alle mostre feline, o il cane Focaccina che sta nella borsetta, che ce lo si porta dietro come se fosse un orecchino o un gioiello. Tutto il discorso ovviamente legato all'allevamento intensivo, come dicevo prima, gli animali trattati come merci. Ma di quel documentario mi aveva anche colpito soprattutto l'aspetto legato all'urbanistica, come dicevi tu, di come ci vorrebbe relativamente poco per far sì che la natura riprenda possesso di quelle che sono le geometrie imposte dall'uomo. Poi, come ci è già capitato di parlare, ho una passione particolare per gli scenari post-apocalittici, quindi per forza di cose mi è venuto spontaneo e naturale immaginarmi una storia ambientata in questo mondo in cui i palazzi vengono appunto ripresi e distrutti dai rampicanti, le strade distrutte dai fiumi, e gli animali regnano sovrani, per come è possibile, perché appunto ho cercato di senza essere troppo didascalica fare una carrellata più o meno generale su tutte quelle che sono le torture e lo sfruttamento animale. Sì, tra l'altro poi una cosa che non esce dal tuo racconto, ma per motivi di tempo, però è chiaro che comunque c'è dietro tutto questo, è il fatto che comunque ci sono delle cose che comunque rimarranno ancora per millenni, come, non lo so, penso magari alle discariche, la plastica, i depositi radioattivi, eccetera. E quindi ovviamente poi starà lì anche a chi rimane confrontarsi con tutto questo. Senti, una domanda che ti volevo fare un po' filosofica, quindi scusami perché non mi piacciono molto queste domande. Il documentario si chiama Life After People, e quindi è sottointeso che sembra quasi che per far sì che il mondo ritorni a uno stadio di questo tipo, in cui non ci sta più l'oppressione dell'uomo sulle altre specie, sia necessaria l'estinzione dell'uomo. E, secondo te è possibile in realtà che l'oppressione dell'uomo sulle altre specie sia una cosa anche legata magari a un tipo di sistema di sfruttamento, a un modo di vivere che ha l'essere umano, eccetera? Quindi magari se ci fosse un altro documentario chiamato Life After, non lo so, Società di Ora, sarebbe più o meno la stessa cosa, sarebbe diverso? Probabilmente gli esseri umani dovrebbero confrontarsi, quelli rimasti, con le stesse problematiche di cui si confrontano gli animali protagonisti del tuo racconto, oppure no? Beh, guarda, a me viene da pensare a quella, non sono molto portata per le materie scientifiche, però c'è una cosa che mi ricordo che ho studiato dalle superiori, che mi è rimasto molto colpita, è dell'infinitesimamente piccolo, abbiamo capito, infinitesimamente grande, cioè di come la struttura magari di una molecola possa essere riprodotta per la struttura delle galassie, ed è un paragone che viene fatto molto spesso, di confrontare quello dell'invasione della popolazione dell'uomo come una forma di invasione, come una forma di infezione del pianeta Terra, no? E questi tipi di dinamiche, cioè un corpo estraneo che arriva e ha un impatto devastante su un sistema esistente, questo sistema esistente prima o poi dovrà per forza di cose respingerlo, perché sennò che cosa funziona? Se un microbo, se un virus non ha nutrimento, muore, perisce o deve trovare un altro organo a cui attaccarsi, a cui succhiare linfa vitale. Quindi io credo che a questo punto della storia dell'uomo, dell'umanità, forse ci stiamo cominciando a rendere conto che l'essere vivente da cui stiamo succhiando linfa vitale senza preoccuparci del fatto che non ci sono risorse, siano inesauribili, o comunque dell'impatto che abbiamo su questo altro sistema, ci obbligherà prima o poi a rivedere la nostra posizione, cosa che si può secondo me anche replicare in tutti i fenomeni socio-economici. Basta pensare adesso all'esodo dalle guerre. Proprio oggi stavo parlando con un amico del concetto di arroccarsi in una posizione per preservare i privilegi, e quindi irrigidirsi in una posizione ricorda un pochettino quei leggendari paesini di montagna, quelle famiglie nobili in cui ci si accoppia tra cugini per preservare la purezza, però poi alla fine si verrà sconfitti immediatamente dal primo, passami l'esempio di gatto bastardo cencioso, che già le difese immunitarie generate appunto dalla resilienza, dalla mescolanza e da tutta una serie di cose che per forza di cose è più grosso, si chiama evoluzione. Quindi io non so, è chiaro che non auguro l'estinzione del genere umano, perché nonostante tutto riesce a fare ancora cose grandiose. Credo che comunque saremo obbligati tutti a rivedere il nostro stile di vita. Una cavolata, parlavo sempre con un amico di recente che ormai quasi forse il 60% della popolazione mondiale si nutre di insetti abitualmente, fa parte della loro dieta, e se tutta la popolazione mondiale volesse nutrirsi di proteine animali come fa l'occidentale medio, l'unico modo possibile sarebbe appunto quello di nutrirsi degli insetti. Forse quando veramente gli onnivori convinti arriveranno a dire ok, vuoi le proteine animali, sei convinto di non poter vivere senza proteine animali, mangiati queste larve, mangiati questi scarafaggi, loro stessi forse saranno obbligati a fare una scelta. Ecco, quindi credo che per quanto sia devastante e impattante la vita dell'uomo occidentale borioso, ricco e divoratore di risorse, si dovrà scontrare, dovrà essere, cioè verrà comunque assorbito dal sistema più forte, che è quello della terra. Ma cioè, riportando, cioè, togliendoci un po' dal discorso, insomma, filosofico. No, del proiettarsi, insomma, verso il futuro, no? Volevo riportare, insomma, al presente, alla quotidianità, alle esperienze, insomma, che avete voi anche come collettivo, insomma, vi trovate ad attraversare spazi occupati durante le iniziative, sia in Italia che all'estero. Volevo riportare un po' il discorso al presente, insomma, e qual è la vostra percezione, cioè dalle vostre esperienze girando appunto in giro sul tema, insomma, dell'antispecismo, cioè sì, anche riportando il discorso al presente, è comunque una cosa, cioè un tema legato più al nutrimento, insomma, qual è la vostra percezione negli spazi occupati che frequentiamo tutti, insomma? Ma guarda, a me sembra che comunque per quanto riguarda il movimento, comunque gli spazi dove giriamo, dove suoniamo, la sensibilità sia molto alta, e credo che sia anche una bella cosa. Ci è capitato spesso di recente andare a suonare in un posto e ci abbiano detto: sentite, noi non siamo vegani, non sapevamo se fare vegetariano, vegano, onnivoro, abbiamo fatto vegano per tutti, così non rischiavamo di fare cazzate. Che sono piccole cose che è chiaro che fanno piacere, perché tanto io non credo che nel momento in cui magari tu inviti un gruppo a suonare che sei molto sensibile a determinate tematiche, se per quella sera eviti di cucinare determinate cose o di acquistare determinati cibi, perché c'è anche il discorso, cioè non è solo il fatto di cucinare, è proprio far parte del mercato, no? Di contribuire a quel mercato, alla commercializzazione di determinate cose, chiamiamole cose. Non credo che vada a destabilizzarti. La cosa che mi piace tanto è che comunque vedo che negli anni la sensibilità sta aumentando molto, ed è bello perché è una piccola rivoluzione silenziosa che non ha mai portato, non ha mai richiesto fondamentalmente l'uso di violenza concreta. È un passaparola, è buon senso. Magari una volta mi farei delle domande del cazzo su perché non mangio carne, la volta dopo però forse ti fermi un secondo a riflettere quando avrai una bistecca nel piatto, e la volta dopo ancora magari non la compri. Quindi secondo me molto positiva da questo punto di vista quello che l'antispecismo sta facendo e ha fatto all'interno degli spazi occupati, e quello che gli spazi occupati stanno facendo per l'antispecismo, ecco. No, sì, no, stavo osservando il compagno qui davanti, non so, no, volevi aggiungere qualcosa? No, vabbè, io magari ho una percezione un po' diversa, ma ovviamente frequentiamo magari anche posti diversi e sì. Posti geografici diversi. Sai che Kalashnikov vanno solo sotto il Po, non scendono. Forse. Quindi qua nelle patrie norrene vichinghe diciamo che la sensibilità è alta, ed è capitato veramente rarissime sono state le occasioni in cui, almeno per esempio tipo da quando sono io con i Kalashnikov, non mi è mai capitato di trovarmi una pasta con i Brustel, come no, diciamo che per i gruppi. magari a livello di cibo, perlomeno qui da noi, è passata molto la cosa dell'alternativa, esatto. E anche, ma anche da un punto di vista proprio prettamente commerciale, nel senso in giro nei ristoranti dappertutto, non solo nei centri sociali, è passata molto questa cosa dell'alternativa, quindi ci sono persone che hanno gusti culinari diversi per ragioni diverse, non si sa quali sono, e cuciniamo cose diverse perché va da sé che se vogliamo farle mangiare, vogliamo farle consumare, dobbiamo rientra nell'abitudine alimentare, nell'offerta insomma diversa. Beh, anche per i vegani, diciamo che magari le motivazioni non sono nobili, però non ci sputo sopra questa cosa qui, ecco. No, chiaro. No, vabbè, quello che vabbè, io invece ritorno un po' a quello che stavamo dicendo prima. No, vabbè, volevo dirti, mi piaceva molto il discorso che stai facendo su appunto anche umani, estinzione, non estinzione, eccetera. E mi chiedevo quanto poi in realtà potesse, tu facevi appunto un discorso sul fatto che alcuni si potessero, in particolare l'Occidente, si potesse permettere di mangiare carne, mentre altri paesi si possono permettere di mangiare insetti, eccetera. E dicevi, forse sarà una cosa che da sé porterà al fatto che le persone dovranno capire che o si mangiano gli insetti oppure moriranno. Non pensi invece che magari potrebbe essere che la carne, ma come anche altri privilegi, diventerà una cosa sempre più esclusiva e che magari diventerà in mano sempre a meno persone, che avranno ovviamente più privilegi delle altre a seconda del proprio status sociale o di altre caratteristiche che poi fanno i privilegi complessivi di una persona. Beh, quindi mi chiedevo, diciamo, se in realtà fosse un... Okay. Sì. È sempre stato così, soprattutto per la nostra società. Io penso solo a due generazioni prima della mia, magari tu pensi alla generazione dei miei genitori, il consumo di carne, va bene che si usciva da una guerra, però mangiavano carne una volta alla settimana. È chiaro che sarebbe meraviglioso se si smettesse dall'oggi al domani di uccidere gli animali, coltivarli per mangiarceli, però io credo che già tante cose cambierebbero se ci fosse un tipo di consumo diverso. Per esempio, cioè, mi vengono due esempi, uno che adesso di recente hanno fatto, mi sembra, sulla 7, hanno fatto vedere esseri animali che entravano in un allevamento intensivo, poi report con i poliamadori, se non mi ricordo bene. Il giorno dopo vai al lavoro e quelli che fino a un secondo prima ti dicevano ieri ho grigliato per 16 ore, io sono il più figo del mondo a grigliare, cosa ovviamente tipicamente maschile, da uomo delle caverne, poi ti dicono ah però che schifo, ma tu che non mangi carne, non è che mi daresti qualche ricetta, no? Cioè vedi lo schifo che mangi e poi cerchi di per un secondo che c'hai un po' la roba, nel senso di colpa cristiano, di lavarti la coscienza. Un altro atteggiamento che mi viene in mente, che l'ho trovato molto più sincero per quanto non condivisibile, di un mio vecchio collega che era tenacemente carnivoro, e lui mi diceva a me i vegani mi stanno sul cazzo, ma più vegani ci sono più sarà buona la carne che mangio io, perché non ci sarà più bisogno di produrne così tanta da dover giustificare gli allevamenti intensivi. Era aberrante come ragionamento, però aveva un suo senso, ecco. Quindi non so, probabilmente sì, ma mi auguro che un giorno la carne diventi un lusso, persone bizzarre con gusti particolari che devono spendere 15 stipendi per mangiarsi la carne, sarebbe meraviglioso. Cioè, di certo non ci sarebbe la strage di animali che c'è adesso, ecco. No, appunto, sempre rimanendo in tema di proiezioni future, mi viene in mente un film degli anni 70 che è 2013, Sopravvissuti, non so se l'hai visto. No. Non ho presente. No, in pratica. Però magari sì. Sì, tra l'altro è un film che è stato basato su uno studio che è stato fatto negli anni 60 sui ritmi di produzione che c'erano proprio negli anni 60, proiettando appunto i ritmi di produzione e la sostenibilità a 50 anni nel futuro. E si era immaginato appunto questo mondo futuro in cui la maggior parte della popolazione si cibava del solito Soylent Green, che era un mi sembra familiare sta cosa. È un film con Charlton Heston. Va bene, comunque, e insomma, la maggioranza della popolazione si cibava di queste gallette del Soylent, appunto, che vabbè, poi c'era il Soylent Green, non ve lo spoilero di che cosa è composto il Soylent Green, però la popolazione ricca che viveva in quartieri ultra protetti da vigilantes e protetti da mura alte 20 metri, nelle loro ville si cibava appunto di carne. No, sì. Sì, c'è pure questo tema, c'è pure un libro molto figo che si chiama Sotto la pelle, che praticamente parla anche quello di un mondo post-apocalittico in cui appunto i ricchi si possono permettere di mangiare esseri umani cacciati e allevati. Sì. A me viene in mente anche Karma Food di Wu Ming 5, se non sbaglio, in cui appunto, visto la crisi e l'impossibilità di garantire la carne o le proteine animali a tutta la popolazione, a un certo punto decidono che è ammissibile anche mangiare la carne U, dove U sta per umana, e quindi ci sono tutte le ricette di carne U senza mai specificare che cioè tutti lo sanno da dove arriva quella carne, ma nessuno vuole ammettere che si nutrano l'uno dell'altro, ecco. E come mi viene in mente anche un'altra situazione in cui l'essere umano ha abbandonato la gestione di un posto destinato a insomma alla mercificazione di altri esseri viventi. Volevo parlare dello squat around town, appunto, che c'è stato a Torino, dove voi avete suonato poche settimane fa, e non so, è stato interessante insomma vedere un'iniziativa di 5 giorni appunto in un ex zoo. È stato bello vedere le gabbie vuote, no? Sì, allora diciamo che non sempre, no, beh, sono stati giorni bellissimi, però mi ricordo che c'è stato un paio di volte che c'è stata per esempio un'occupazione del telos in quello che era un ex macello che poi è diventato un canile, e che poi appunto è stato abbandonato, ed è difficile, nel senso che abbiamo cercato di farci forza, di cercare di vedere il lato positivo e pensare che comunque indipendentemente da ciò che era successo in quelle mura, ogni luogo, ogni posto, ogni situazione può diventare qualcosa di bello, come appunto può essere un gruppo di persone che si uniscono, si uniscono, dei concerti. Però ecco, vedere i ganci appesi, le celle frigorifere, per quello che è stato per esempio il telos, faceva un po' la sua impressione. Per quanto riguarda lo zoo, è chiaro che erroneamente la percezione è un po' diversa rispetto a quello che è un macello, nel senso che quando ero bambina adoravo andare allo zoo proprio perché mi piacevano gli animali e mi piaceva vedere gli animali da vicino. Poi col tempo mi è subentrata la consapevolezza del fatto che non stessero bene qui e quello non era il loro posto. Quindi sì, andare a vedere la vasca dei pinguini, dove però non ci sono più pinguini, è stato bizzarro, sì. Vabbè. Anche lì mi viene in mente il riprendersi gli spazi, no? Sì, sì, cancellare, no, anche perché insomma tutti i ricordi. Anche perché ricordiamo il progetto speculativo su quella struttura lì che c'è a Torino, è attivo, insomma, è in programma la riattivazione di un bioparco appunto in quell'area. Sotto mentite spoglie. Sotto mentite spoglie, insomma. E quindi c'è il tentativo appunto di contrastare questo nuovo progetto. E vabbè, ricordiamo insomma una prossima iniziativa che ci sarà appunto la domenica 26 giugno, una biciclettata per il Michelotti Libera, appunto l'ex zoo, in partenza dalle ore 17 davanti all'entrata del parco. Rilanciamo appunto la lotta per mantenere questo spazio libero da animali e dalla speculazione. Va bene. Va bene, allora direi insomma di il tempo, insomma sono il 22:12, noi sempre andiamo a scavallare l'orario insomma che è quello di Apostasia, la trasmissione che c'è dopo di noi, e va bene Valeria, se non abbiamo, cioè, se non hai nient'altro da aggiungere magari non so. No, direi che di cosette ne ho detto abbastanza. Va bene. Allora, e niente, siamo giunti insomma alla fine di questo primo, forse primo progetto che è Le Vostre Lettere, e insomma hai avuto modo di raccogliere qualche racconto da questa? Certo, quindi diciamo che dedicheremo questa pausa estiva a decidere cosa fare di questi racconti e poi ci risentiremo. Va bene. Allora, Valeria, grazie, insomma, grazie a voi. E complimenti per il racconto, insomma, ricordiamo. Invitiamo tutti a sentirselo e magari a risentirselo dopo aver visto anche sentirselo con le immagini del documentario. Sì. In sottofondo, appunto. Sì, anche per questo racconto comunque l'invito è sempre aperto di proseguirlo, cambiarlo, farlo proprio, magari uno spettacolo teatrale, butto lì. Sì. Ok, non vedo l'ora di vedere chi interpreta Focaccina. mi batterò per interpretare Focaccina. Sì, tu hai proprio la stazza del Chihuahua. Sì, il pincer nazista. Sì, per leccare i nati, no, a parte questo. E, va bene. Ok, dopo questa niente. Ok, io lo sapevo che finiva trash. Così. Dopo questo momento trash, ti ringraziamo ancora, Valeria. E grazie a voi davvero. Dai, allora ci sentiamo. A presto a Roma. A presto. A presto, uscite via dal Po. Basta questo Po. Vabbè, proviamo, dai. Adesso dobbiamo trovare il batterista e poi ricominciamo. Va bene. Ciao. Ok, ciao Valeria, grazie ancora. Ciao. Ciao. No, sì. Sì, sono qua, eccomi. No. Presente. Però ci salutiamo con un brano che tu hai scelto, perché le cose me le ricordo anche. Giusto, io me l'ero dimenticata. Allora, cosa c'è? Brano a tema, insomma, stiamo parlando di queste cose qui, e quindi Campus Termini e così sia. Dai. Allora, grazie ancora Valeria, ciao, a presto. Ciao. Allora, Campus Termini e così sia. Questa la dedichiamo magari a qualcuno che è in ascolto. Questa la dedichiamo alla macchia nera che girava a Roma qualche anno fa. Campus Termini. Allora, 22-17, i soliti... No, no, cioè, non sono problemi tecnici, non sono problemi proprio personali, quelli... Problemi tuoi, diciamo. Problemi miei, insomma. Cioè, dovrei aver acquisito un minimo di esperienza, invece no. Vabbè. Quindi grazie... Grazie di essere rimasti all'ascolto. Chi è rimasto? Se fosse rimasto qualcuno. Allora, rimanete all'ascolto perché tra pochissimo inizia una nuova puntata di Epostasia. Noi ci vediamo domani, venerdì e sabato alla SNIA per l'Onda Rossa Festa. Con la festa. E il nostro abbraccio più caloroso va a tutte e tutti. Che si trovano reclusi dietro le mura, dietro le sbarre. Quindi domani, venerdì e sabato, appunto, per incontrarci di persona. Mentre da queste frequenze ci risentiamo giovedì prossimo dalle ore 21. Grazie ancora. E questa ce la riascoltiamo da capo. Kalashnikov, da Living in a Psycho Chaos Era. E questa scelta da Radio Postuma. Nere sono le cinghie dei fucili, da capo. Thank you. mentre